Okay. Big J. Il 012. Buone nuove. Lo senti come suona? Ho solo qualche minuto per dire la mia bella gente qui mi ascolta, così sia. Zero roba pacco, io mica me la vanto. Faccio quello che mi piace anche se poi non vale un cazzo. La gente ne vuole, io spaccio. Non ho la pistola ma con la parola buco senz'altro. E non è musica né canto, questi sono pensieri e parole nero su bianco. Questa roba tranquilli funziona, voi fate come Jerry. Passaparola, perché la musica deve girare. Rispetto tutti ma vorrei vedere anche gente normale. Non c'è distinzione né di suono né di aspetto, ma alcuni non hanno nemmeno un concetto. Tutti con il cappelletto, il ferro vecchio. Intanto blocchiamo chi ha talento. Ok, tu ascolta questo pezzo, ascoltalo due o tre volte poi dacci dentro. Questo è Big J, buone nuove, buone nuove predistay. E quando è finito tu passalo ad ogni ragazza e ragazzo sconosciuto, tu passalo. Questo è Big J, buone nuove predistay. Verità. Mai scritto album epici, ma aperto il cuore alla musica, tu credici. Non c'è nulla di meglio al mondo, no, che scrivere qualcosa che sia tuo profondo. E se la strofa sembra poco geniale, tu continua a scrivere, non ci pensare. Io l'ho fatto per gioco anni fa ed ora è quasi una cosa a cui non posso più rinunciare. Restare solo a guardare il soffitto quando tutto il tuo mondo entra in conflitto. Che hai spese, litigate, accese, corde tese, cerchi aria fresca, metti le cuffie e le catene. A me succede, è per questo che faccio musica. Perché ho avuto sempre gente con la tunica. Poi qualcuno col tempo cambia e muta, alcuni invece fanno la muffa, che fine brutta. Ok, tu ascolta questo pezzo, ascoltalo due o tre volte poi dacci dentro. Questo è Big J, buone nuove, buone nuove prediste. E quando è finito tu passalo ad ogni ragazza e ragazzo sconosciuto, tu passalo. Questo è Big J, buone nuove predistay. Non voglio fare il fratello maggiore, non voglio fare figli al grande fratello datore. Tu dammi un'ora del tuo tempo libero, ti lascio col sorriso e dai pensieri ti libero. C'è sempre tempo per stare ad incazzarsi, la gente vuol ridere perché non ha domande da farsi. Anzi ridere fa bene da sempre, a farci piangere ci pensa il presidente. Non dire niente, speriamo non si sente, che poi mi bloccano disco video e conto corrente. Questa è la prima, siamo a meno 7, il bello che non so come chiudere fa niente. Devo dire come inizio non c'è male, poi magari sto predisco è un flop colossale. Saluto tutti quelli pronti a commentare, lo so non sono il massimo, voi lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.